L'altra sera son salito da te, ho visto che nel bagno tuo non c'era il bidet. La cosa mi puzzava un po', ma dopo però noi siamo andati in camera ed ho visto che c'avevi Tarzanelli. Oh no, i Tarzanelli. Mi spiace ma non posso amare una donna con i Tarzanelli. Mi hai chiamato ancora per uscire con te, ti ho detto prima vieni su a farti un bidet, ti ho dato il detergente che uso per i gioielli, ma tu non l'hai usato e c'avevi un'altra volta i Tarzanelli. Oh no, i Tarzanelli. Ci vuole il tosaerba per estirparti tutti i Tarzanelli. Mi piace ma non si può fare se tu fra le chiappe hai Tarzanelli.